Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa è Europa 24, partiamo con i fondi europei perché è arrivato il via libera di Bruxelles all'accordo di partenariato con l'Italia. Dopo sei mesi di negoziato, la Commissione europea e il governo italiano hanno siglato oggi un atteso programma di partenariato in vista dell'uso di 43 miliardi di euro in fondi comunitari dal 2014 al 2020. Il programma, lungo oltre 2000 pagine, elenca l'uso del denaro progetto per progetto. Di questi 43 miliardi, 32,2 miliardi saranno devoluti alle politiche di coesione. Una fetta molto importante, oltre 22 miliardi di euro, sarà riservata alle 5 regioni meno sviluppate del Sud Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per anni le autorità italiane hanno sprecato il denaro comunitario, vuoi per progetti mai portati a termine, vuoi per insipienza amministrativa o politica, in alcuni casi senza neppure utilizzare i soldi. La crisi economica ha modificato in parte l'atteggiamento. Negli ultimi anni il denaro comunitario è stato utilizzato con maggiore efficienza nel tentare di modernizzare il paese. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Nessuna grave violazione dalle regole del patto nella legge di stabilità. È arrivato ieri il primo sì da Bruxelles, che però darà il giudizio finale a novembre. E in serata il Consiglio dei Ministri ha modificato il DEF con il deficit 2015 che scende al 2,6%. Il documento di economia e finanza torna quindi in aula, soddisfatto il ministro Padoan. E oggi il governo incontra i sindaci che contestano i tagli. Nel servizio vediamo quali sono le azioni di bilancio dei vari paesi europei sottoposti alla valutazione della Commissione. Per le pagelle vere e proprie bisognerà aspettare metà novembre, ma intanto dalla Commissione europea arriva un primo sì e la sufficienza alla fine se la giudicano tutti i paesi dell'Eurozona. Ma come accade a scuola, c'è chi primeggia e chi deve mettersi in pari e impegnarsi di più. Disco verde con riserva dunque ai conti d'Italia, Francia, Austria, Slovenia e Malta, e cinque stati considerati a rischio di seria violazione delle regole e ai quali la Commissione aveva inviato la settimana scorsa lettere di avvertimento, mentre gli altri stati dell'Eurozona non avevano suscitato la preoccupazione di Bruxelles. Ma gli esami, come si diceva, non sono finiti qui e sui bilanci dei cinque spetterà la nuova Commissione UE, che si insedierà a novembre, adottare le valutazioni finali tenendo conto delle previsioni economiche di autunno. La procedura di infrazione non è scongiurata, ammette lo stesso ministro italiano dell'economia Padoan, e il nostro governo, che per i rilievi della UE ha dovuto già correggere di 4,5 miliardi di euro l'impianto originario della manovra, potrebbe essere chiamato in futuro a ulteriori richieste. Anche la Francia è dovuta correre ai ripari, trovando circa 3,7 miliardi di euro per consentire una riduzione del deficit strutturale molto vicina a quella chiesta da Bruxelles. 900 milioni arriveranno a Parigi dalla lotta all'evasione fiscale. Scongiurate le bocciature, il peggio ora è dunque passato, ma toccherà all'esecutivo di Juncker il giudizio definitivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Proseguono a ritmo serrato le consultazioni tra il governo di Atene e i rappresentanti della Troica, lo ricordiamo, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e BCE, in vista della ripresa dell'ultimo ma decisivo controllo sull'attuazione del programma di risanamento dell'economia greca adottato all'inizio della crisi. Il controllo era stato interrotto in seguito al recente annuncio del governo greco di voler uscire dalla protezione della Troica in attesa dei risultati degli stress test delle banche greche. Le trattative riprenderanno nella prima decade di novembre. Sino ad allora le parti dovranno aver raggiunto risultati su questioni che si ritroveranno sul tavolo delle trattative, tra cui la situazione del sistema previdenziale, i problemi del settore lavorativo, l'attuazione del bilancio 2015. La coalizione al governo nel Regno Unito non è pervenuta ad un accordo sulla proposta di legge che prevede l'organizzazione di un referendum sull'appartenenza all'Unione Europea entro il 2017, bloccando di fatto il suo percorso parlamentare. Difeso da Bob Neill, il deputato del Partito Conservatore del primo ministro David Cameron, il testo avrebbe garantito la convocazione di un referendum nel 2017, qualunque sarebbe stata la coalizione al potere dopo il voto per le legislative di maggio 2015. È tutto per Europa 24, vi ha parlato Daniele Biacchisi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.